occasioni mondane, presentazione di un libro, c'è il tale, c'è il tal'altro, tante ragazze attillatine più fuori che dentro, e c'è soprattutto lui, lui quello che viene presentato per primo, che parla per primo e che va via per primo, no? È un po' come la storia del prima della cura e del dopo la cura. Lui è un onorevole, è stato ministro, uomo politico di lungo corso, ovviamente democristiano, era un avvocato in gioventù, era un avvocato prima di mietere i successi elettorali. E siamo alla presentazione dunque, e siamo alla formula del porgo la parola, no? Allora, porgo la parola all'avvocato, non all'onorevole, porgo la parola all'avvocato. Come passa il tempo? Prima della cura avrebbe porto la parola all'onorevole e ora, dopo la cura, la porge all'avvocato. La cura, per una volta, non l'hanno fatta i medici, ma i magistrati, e l'effetto, a dire il vero, non è stato poi ancora quel granché, anche perché lui è ancora lì, sempre lo stesso, è cambiato il linguaggio per descriverlo. Si ascriva il tutto al capitolo sui rapporti fra amministrazione della giustizia e semantica storica, nonché alla normativa per il nuovo Galateo, perché se un tempo, invitando a coprirsi le vergogne, pur nella difficoltà della metafora ci si capiva e 9 volte su 10 si poteva essere d'accordo, oggi nell'eccezione del coprirsi le vergogne va perfino incluso il fatto di tacere la propria qualifica di onorevole. Ma se lo fa un inquisito o un riconosciuto ladro di polli della comunità, l'accorgimento è comprensibile. Mentre se lo fa uno che inquisito non è, e questo almeno fino all'altro giorno inquisito non era, la cosa può apparire sospetta, come un rossore che tradisce un pensiero, la cautela sulla propria pubblica onorabilità sa di coda di paglia, sa di inquisito non ancora, di inquisito prossimo venturo, di inquisito potenziale, come se il reato, anziché onestamente evitato, sia ancora codardemente sommerso.